finché dura tu, oltre il consentito, tra il buon umore e il pianto, coraggio, cuore in gola, tra chi sai ancora, tu braccio a mille mani, fiore di tanti rami, tra confusione e sosta, tra silenzio e forza, il richiudersi tra gli spazi immensi di un silenzio causa in noi, il convincersi dell'essere stato mai.